La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Chi era Gianpaolo Tarantini? Un imprenditore di grande successo. Tutti lo vedevano come un mito, come uno che era riuscito ad ottenere il successo, ad arrivare all'apice. E beh, non è da tutti. Tutti ora quelli che lo calpestano, lo condannano, perché in realtà sono invidiosi. Non hanno mai potuto vivere, secondo me non vivranno mai neanche un giorno di come l'ha vissuto Tarantini. Un giorno da leone. Invece gli altri vivono 100 anni da pecora. Quando sei onesto non fai un grande business. È la legge del mercato. Più in alto vuoi andare e più devi passare sui cadaveri. È così ed è giusto che sia così. Però qui non viene capito perché c'è un'idea cattolica, c'è un'idea morale. È quello che mi fa incazzare. L'idea moralista della sinistra. Che tutti devono guadagnare 2000 euro al mese, che tutti devono avere diritto. No, no, no, qui è la legge di chi è più forte, di chi è il leone. Se tu sei pecora, rimani a casa con 2000 euro al mese. Se tu invece vuoi 20.000 euro al mese, ti devi mettere sul campo e ti devi vendere tua madre. Mi dispiace, ma è così, la penso così. Poi, se tu sei una bella donna e ti vuoi vendere, tu lo devi poter fare, perché anche la bellezza, anzi soprattutto, come dice Sgarbi, la bellezza ha un valore. Se tu seracchi e fai schifo, te ne devi stare a casa, perché la bellezza è un valore che non tutti hanno e viene pagato, come la bravura di un medico, è così. Allora, chi questo non lo capisce? Ah, il ruolo della donna viene minimizzato. E vabbè, allora stai a casa, ma non mi rompere i coglioni. Abbiamo ascoltato la Lectio Magistralis di Terry De Nicolò, escort, che non solo è fiera di mettersi in vendita, ma afferma con sicurezza che chi non lo fa è uno sfigato. Ma senta, Terry, a noi questa sua proposta di diventare tutti puttane e puttani non ci pare il massimo. Secondo lei Tarantini è uno che è arrivato all'apice. Scusi, signorina De Nicolò, ma l'apice sarebbe fare il ruffiano? Il procacciatore di donne? Ha dei vecchioni potenti e impotenti? Per combinare affari? A lei parrà strano, ma lo sa che noi, Tarantini, non lo invidiamo. Noi siamo io e la redazione. Io ormai fuori mercato, anche per motivi d'età. Ma Gloria Guerrera e Alessandro Chiappini e anche Simone Morandi, che è qui in visita, che sono giovani e belli, ma invece di andare nei letti dei potenti a pagamento, lavorano, perché hanno talento. Si fanno il mazzo, qualche volta bestemmiano, perché il lavoro è tanto, però danno vita a delle cose belle e non devono niente a nessuno e sono padroni di sé. Lei dice che Tarantini è stato generoso, che l'ha aiutata. Ma scusi, bello aiuto, come l'ha aiutata? L'ha mandata a battere. Guadagnandoci sopra e usandola come pedina per accattare, dal verbo poi viene il sostantivo accattone. Commesse e favori. Bell'amico uno che ti vende. C'è un libro che magari le è sfuggito, che si chiama Madame Bovary. Quando la povera Emma Bovary, disperata per i debiti, va a chiedere un prestito a un signore e lui si offre di comprarla, dice te lo do se vieni a letto con me, lei risponde, signore, io non sono da comprare, ma da compiangere. No, guardi, noi il suo Tarantini non lo invidiamo, perché quello che lei chiama apice, senta, saremo semplici, ma a noi ci pare l'abisso, ci pare la schifezza proprio, ci pare l'ultimo gradino dell'umiliazione, ci pare il massimo della sfiga, ci sembra l'ascesa di un piccolo prepotente pieno di complessi e senza vergogna. A noi non ci pare che l'apice siano queste lotte di servi e favorite che tramano le spalle del sultano facendo chi lo pela meglio. Terry, a noi pare tanto brutto. Ci pare, come dice D'Annunzio, desolazione. Desolazione senza bellezza. E poi guardi, io le vorrei passare un'informazione che sicuramente nessuno le ha mai detto. Esiste dell'altro. Ci sono altre soddisfazioni. No, ma mi creda, ci sono altri apici. Lei non lo sa, ma ha intonato il canto della schiava, il canto della serva. Sta dicendo: siamo così disgraziati, così poveri, così disperati, che possiamo vendere soltanto il nostro corpo. L'apice sarebbero le serate eleganti, con quel povero uomo al governo che si tiene in piedi con gli zeppi, tutto rattoppato, con dei trucchi da Frankenstein. L'apice sarebbero le orge con Mora e Fede. No, qualche spavento, no? C'è da restarci eroticamente invalidi per sempre, paralizzati, monaci a vita. Расплата за ошибки, она ведь тоже труд. Si usa dire, la do, lo do, per soldi, usando questa espressione pars pro toto, ovvero la parte per il tutto. Ma guarda che purtroppo è un modo di dire molto impreciso, perché non è che la parte si può mandare per pony. Magari si potesse spedire per email. Invece no, bisogna dare se stessi, bisogna esserci per intero, corpo e anima, che vengono modificati e imbruttiti dal servaggio. Lei dice che chi vuole arrivare deve vendere la madre. Ma per caso lei la sua l'ha già venduta? Adesso che ha cominciato questo corso, che penso non finirà qui all'Italia intera, nel prossimo video messaggio ci fa sapere per favore chi gliel'ha comprata, la mamma, e per farne che cosa? Hamburger, salsicce. Che gliene importa, chi vuole arrivare mica può guardare queste minuzie. E poi per arrivare dove? Al billionaire? In SUV? Pensi che noi qui, no? Io e i suddetti, a noi ci fa schifo il SUV, eppure il billionaire. No, perché sa, a parte il trionfo del super cafonal, come lo chiama Dago Spia stesso, sul giorno da leone le ha già risposto: meglio un giorno da leone che 100 a pecorina, cioè in ginocchio. Lei si considera molto poco. Gloria, Alessandro, Simone, invece, sono molto più presuntuosi di lei, più arroganti, e non si vendono, perché pensano di valere moltissimo. Pensano che non c'è cifra che possa eguagliarli. E poi lei veramente ha capito male, guardi. Un giorno da leone. Lei ha sentito questa frase, ma non sa cosa vuol dire. Perché un giorno da leone vuol dire un'altra cosa. Non vuol dire arruffianarsi il potere. Vuol dire contrastarlo. Vuol dire sfidarlo. Certo, io lo so, cioè non voglio fare della retorica. Lo so che a vendere la madre si hanno dei vantaggi materiali innegabili. E chi fa gli sbruffoni, gli indipendenti come noi qua dentro, qualche volta ci si trova in difficoltà. O magari non sai come pagare l'affitto. O la scuola tuo figlio. Beh, lei non si immagina che soddisfazione cavarsela col talento, con la voglia di lavorare e di trasformare le cose. Perché abbiamo noi stessi, perché siamo integri, perché possiamo ricominciare in qualsiasi momento, come nei film di fantascienza, quei robot che li abbattono, tra! E loro risorgono sempre, perché hanno da risorgere. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты. San Francesco predicava alle creature della natura. Io più modestamente sto facendo una predica a Terry De Nicolò, l'escort barese che ha mandato su YouTube questo suo Vangelo secondo Terry, dove dice che bisogna vendersi, darlo via, altrimenti si è degli sfigati. E quindi stiamo un po' discutendo a distanza con lei, stiamo rispondendo alle sue affermazioni. Stavo dicendo a Terry che lei, che appunto ha scelto questa schiavitù, poi la schiavitù non si sceglie, si è schiavi, non sa quanto dà gusto essere liberi, poter vedere solo quelli che ami, che ti interessano. Lei non sa che gioco emozionante sia non piegarsi. Ci provi una volta, stare con chi ti piace, fuggire chi ti fa schifo. Non sa che allegria farti mettere le mani addosso perché proprio ti va. E non perché poi ci compri qualche cosa. Lei è un po' arcaica. Lei pensa soltanto al baratto. Com'è noioso. Io ti do una cosa, tu mi dai una cosa. Siamo tutti cose. Le cose non godono. Lei non si immagina che leggerezza, che euforia, non morire sepolti dagli abiti firmati. Non dover fingere, corteggiare, mentire. Certo, vendersi va molto di moda anche fra i maschi. E anche senza dare direttamente il corpo, che poi è la stessa cosa, Quelli che zompano da un partito all'altro come cavallette. Mi ricordo un magnifico Corrado Guzzanti che faceva l'imitazione di un famoso transfuga, Capezzone, che diceva a un compagno di partito: dai, zompa! Zompa anche tu, zompa! Beh, Terry, c'è gente che non zompa e se ne trova benissimo. Poi si guarda allo specchio e si dice: oh, Ma guarda che figo! E si trova bello, bellissimo, seducente come un piccolo eroe dal libro di scuola, pure se c'ha le rughe e il naso da cormorano. E dice, tiè mondo, io non seguo te, io seguo me, di volta in volta. Il fatto è che comunque finiscano i guai giudiziari dell'uomo che guida il governo, il male è fatto. E nessun tribunale potrà mai giudicare questo vertiginoso ritorno indietro sul modo di vedere la donna, ma non soltanto la donna, i rapporti umani. Io un giorno ho capito che il male era fatto e che sarà difficilissimo ricostruire il tessuto della decenza, anche estetica. Perché ero da parrucchiere, entra una bellissima ragazza con le gambe lunghe, bei capelli, occhi magnifici, e c'era una vecchina, d'altri tempi, come non ce ne sono quasi più, piccola, grinzosa, una melina secca. Allora sta vecchina, piccola piccola, guarda ammirata la ragazza e le dice in tutta innocenza e con la sincera intenzione di farle un complimento. Ma come bella lei, signorina. Ha un fisico da escort. Voleva dire modella. Questo piccolo episodio mi ha impressionato più di quelli clamorosi, perché se una certa mentalità è entrata nel linguaggio, è entrata anche nelle coscienze. Quell'lapsus della candida signora, quella parola già conteneva la sola. Tutta l'intervista di Terry De Nicolò. E poi questo è un brano dall'articolo di Concita De Gregorio del 19 settembre su Repubblica. No, non è gossip. È un trattato di antropologia culturale, quello che Terry De Nicolò consegna al suo intervistatore. In 10 semplicissimi punti, l'abbecedario della mutazione genetica, di cui Pierpaolo Pasolini fu profeta e Silvio Berlusconi responsabile, per un trentennio, sua dente magnaccia. Sconcertante, ipnotica nel suo non essere mai sfiorata dal dubbio, semplicemente sicura di essere nel giusto, la ragazza barese che ha trascorso le sue notti a pagamento in letti di destra e di sinistra, fino ad arrivare al letto supremo, espone in 10 minuti la quintessenza del berlusconismo. Parla all'Italia, e molta parte dell'Italia, bisogna dirlo molto chiaro questo, la trova ragionevole. Continuo con Concita De Gregorio. Dice Terry De Nicolò che Tarantini è un imprenditore di grande successo, un mito. L'uomo che ha messo a verbale che le donne e la cocaina favoriscono gli affari, che ha barattato prostitute in cambio di appalti, che con la moglie ha messo in piedi una ragnatela di ricatti per i quali oggi è agli arresti. È uno che è riuscito ad arrivare all'apice e non è da tutti. Oh, e infatti dicevo, è grave che questo uomo che non nomino, perché a me non porta bene, abbia lanciato questa moda, questa ideologia proprio del vendersi, del ridurci appunto a cose, ha fatto il contrario di quello che ha fatto Dio. Dio ci ha dato la vita e lui ci pietrifica in questa dimensione di commercio. Questo è grave, ma è molto più grave, come accennava anche nel suo articolo Concita De Gregorio, che tanti abbiano risposto, che tanti abbiano accolto questa cosa con entusiasmo, che un giornalista come Piero Ostellino abbia scritto: una donna che sia consapevolmente seduta sulla propria fortuna e ne faccia partecipe chi vuole concretarla, non è automaticamente una prostituta. Questa frase è un autoritratto al femminile? Ma devo dire, la tradotta è anche molto male, molto verbosamente, la peggiorata, da un famoso libro, che è Memorie di una maestressa americana, di Nell Kimball. Ostellino ha ripetuto con orgoglio le parole di una tenutaria. I fatti di Arcore hanno scoperchiato un'Italia che tifa a tutto spiano per il mercimonio. Chi non è d'accordo è oscurantista. E così i lumi del 2000 sarebbero le lucciole d'alto bordo. Ma sì, vendiamoci, che bellezza, altro che medicina informatica. Apriamo dei corsi per marchette, virgolettato, e se si prende una laurea è per vendersi meglio. Questo l'ha dichiarato Sara Tommasi in un'intervista al Fatto del 10 gennaio 2011. Non sei d'accordo? Bacchettone, moralista. E quindi lo splendore dei sensi sarebbe Arcore, con questi satiri cadenti, lontani dall'erotismo come la terra dalla luna. Ti disgusta? Perbenista, represso. E mica lo dice solo Ferrara. A un certo punto anche le femministe storiche hanno difeso la compravendita. C'è una donna che stimo molto, una donna leggendaria del femminismo, che è Luisa Muraro, che pure critica i compratori in un articolo, ma dice delle donne che vanno a questo mercato: hanno una soggettività che non mettono in vendita. No, io non ci credo. Ma dov'è questa soggettività divisa dall'azione? Io rifiuto la schizofrenia cattolica che divide il corpo dall'anima. Noi siamo una cosa sola. Ci si vende nella propria interezza. Vendere il proprio corpo, voglio dire, è anche un incontestabile diritto, però non è l'ideale. Non è l'ideale, e specialmente non come sistema. Invece salta su un'euforia per la prostituzione. Ma mi chiedo, ma non sono state le femministe a cacciare la Daddario da Piazza Navona? Mi ricordo in un'intervista molto interessante sul Foglio, due femministe citano come dogma: le brave ragazze vanno in cielo, le cattive vanno dappertutto. Beh, io proprio in cielo voglio andare. Ma non il cielo con gli angeli e i flauti, il cielo dell'indipendenza, dell'avventurosa dignità, della bellezza, della grazia, dell'erotismo, della libera invenzione. Visto che sono alla radio, vedo passare in corridoio Giuseppe Sanzonna e approfitto per intervistarlo. Giuseppe Sanzonna è notissimo agli ascoltatori di Radio 24 per i suoi interventi a Melog insieme a Gianluca Nicoletti, dove insieme, affabulando, creano questa nuova forma d'arte, il cinema alla radio. Sanzonna è un eccellente cineasta e uno studioso di cinema, e io sono una ammiratrice della sua eloquenza. Ecco, vorrei fare una domanda a Giuseppe su questo video e sulle dichiarazioni di Terry De Nicolò. Che mi dici, Sanzonna? Beh, fino adesso c'era pura prassi in quel sistema, in quel grande carrozzone allegorico. Adesso c'è una teorizzazione, c'è una mente pensante, ha raccolto, ha riassunto in sé, ha sintetizzato anche mirabilmente tutto un sistema condiviso e consolidato. Come avevo accennato anche prima, oggi qui abbiamo un ragazzino con l'aria da studente al primo esame che invece è un agente letterario e si chiama Simone Morandi. Simone è l'agente letterario di un grande scrittore come Antonio Pennacchi, tra l'altro non è soltanto agente letterario ma anche cinematografico, e tra i suoi assistiti c'è Dario Argento. Simone, tu fai l'agente letterario e quindi devi saperne tantissimo di marchette. Ma gli scrittori fanno le marchette. Per restare nella metafora, io mi sento una maîtresse, per cui è un continuo di marchette, di editori che cercano di comprare, più spesso di autori che cercano di vendersi, quindi in realtà per me questo è pane quotidiano. Però in questo campo, entro certi limiti di onestà, un po' di strategia aiuta e comunque fa salire il prezzo. Certo, gli editori ci detestano, siamo stati definiti retrogradi e medievali, una categoria da chi, che andrebbe... La notizia è arrivata da Francoforte, dove c'è la fiera del libro in corso, credo fosse Cavallero di Mondadori, però insomma non importa, è unanime, diciamo, l'antipatia che gli editori hanno. Ha ragion veduta forse anche per gli agenti, visto che fate i nostri interessi, come un sindacalista in fabbrica. Esattamente. Voglio dire, certo che non è ben visto. A me diverte molto l'idea di cambiare le regole del gioco, quindi prendere autori, provare a proporgli cose diverse presso altri editori, dinamizzare il tutto, perché credo che comunque altrimenti i rapporti finiscono per essere dati per scontati. Quindi solitamente quando si porta un autore ad un nuovo editore ne nascono anche molti stimoli in più, e poi obiettivamente le condizioni dell'autore migliorano perché si innesca un gioco di gelosie, per cui è come una famiglia allargata o è come una scappatella coniugale. Questa cosa mi è riuscita più volte e credo che pochi abbiano il coraggio di farla per andare contro il mondo dell'editoria, perché chiaramente sono dinamiche che un po' urtano nell'immediato, ma che poi producono un frutto probabilmente. Senti, ma Simone, non è che si fanno le marchette solo nel lavoro, si fanno anche nella vita. Io, se vuoi, facciamo un coming out, io ti racconto una marchetta mia e tu mi racconti una marchetta tua. Cominci tu però. Sì, comincio io, come Pinocchio quando si tolgono il berretto con le orecchie d'asino. Io ho fatto una marchetta molto grave, all'esame di maturità classica, perché già stavo ripetendo l'anno per la condotta, mi avevo dato 6 in condotta che allora eri bocciato, e all'esame di italiano, che ovviamente era la mia materia preferita, quella in cui andavo meglio, ci danno un tema: preferite Manzoni o Leopardi? Beh, puoi immaginare chi preferivo io. È ovvio che volevo fare un canto a Leopardi, ma ecco la sorpresa: l'esaminatore è un prete, e un prete non simpatico, di quelli più pericolosi, che si vantava che aveva fatto la resistenza. Quindi ho capito che era un vero reazionario, perché metteva avanti queste cose, ma in verità... E io ho pensato: da qui non esco più, e ho fatto una marchetta solenne, ho scritto un elogio di Manzoni, che puoi immaginare con quanta sincerità, mi hanno dato 4. Ho incontrato la mia professoressa nel corridoio di filosofia, Nora Giacobini, che mi disse con un disprezzo infinito: sei stata più realista del re, ti sta bene, spero che ti boccino. E ho pensato che comunque anche per fare questo bisogna essere molto tagliati, non era la mia carriera. Adesso te però. Io ho pensato che, non venendomene in mente nessuna, forse la marchetta è il mio quotidiano. Ah, terribile finale per questa nostra predica. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Questa volta non vi sto parlando dal faro. Sono dovuta scendere per interrogare sull'argomento che stiamo trattando, ovvero fare o non fare marchette, un personaggio molto importante. Senza togliere niente agli altri, è il più importante fra quelli che abbiamo intervistato. È una persona molto malata. Era impensabile che potesse arrivare fino al faro di Finisterre e arrampicarsi per 150 scalini. Anzi, si è trascinato a fatica fino a Radio 24 ed eccolo che sta entrando. Oddio, che emozione. Buongiorno. Senta, grazie per essere venuto qua. La ringrazio infinitamente. La prego, si sieda. Qui, qui. Grazie. Venga, venga, ecco. Ecco, ecco la sedia. Oh, Madonna, è caduto. Ha mancato la sedia. Gloria, Gloria, Gloria, dammi una mano, dai. Dammi una mano a raccattarlo. Ma quanto pesa? Alessandro, dacci una mano pure te, per favore, non ce la facciamo. Chi è questa dolce ninfa? Questa dolce ninfa è Gloria Guerrera da Catania, la regista. E questo bell'uomo abbondante? E Alessandro Chiappini da Velletri, detto Mano Mozza. Come si sente? Mi scusi, sono un po' indebolito. Attualmente vivo dentro un portone, ma i condomini hanno protestato. E forse mi mandano via pure da lì. Non ho più un posto dove stare. Io, che ero il re degli uomini e degli dèi. È con grande emozione che vi presento... Acqua! Un po' d'acqua, la prego. Prego. E con grande emozione che vi presento Eros, il dio dell'amore. Ma non è più il fanciullo con la faretra. È un vecchio clochard con un cappottone pieno di buchi. Ha una gran barba grigia e gli occhi furibondi. Da un buco più grosso degli altri spunta un'ala, tutta spelacchiata. Ma Eros, lei è un dio. Come ha potuto ridursi così? Sono stati gli umani. Ero il dio del mistero. Hanno fatto di me un articolo di mercato. Mi aggrediscono da ogni parte, carrettate di capezzole, di membri, di chiappe che mi colpiscono da ogni dove. Peli, peli, peli! Respiro a fatica. Però, mi scusi, mi permetto di osservare che l'industria del sesso non è mai stata così fiorente. E non vede che è tutta contro di me? Invece di suscitare il desiderio, lo pietrifica. E sa perché? Crede che non si accorgano che mi stanno uccidendo. Lo fanno apposta. C'è una congiura per abbattermi, e con me tutto ciò che da cui si trae nutrimento spirituale. Lei sa che il corpo e l'anima sono riusciti a vincere la mia immortalità, e infatti, come vede, sto invecchiando. Sono riusciti a rendere finito l'infinito. No, ma che fa, piange? No, la prego, non le fa bene, poi fa brutto in diretta. Senta, un Kleenex e poi le darei anche una pillola per la gola. Provi. Vede. Io non sono il dio dell'inguine, né della ginnastica. Io sono il dio della vita. Io vivo in ogni sfumatura, anche in uno sguardo appena accennato. Ah, ma io li ho denunciati tutti i produttori di materiale hard. Mi devono pagare i danni. Ma, scusi, non vorrà dirmi che si trovava meglio ai tempi della repressione? Oh, sì, quei bei tabù, quella deliziosa vergogna, quella sì era lussuria. Oggi tutto è chiacchiera e vivisezione. Dov'è il peccato? Mi dia dei colpetti sulla schiena. Ai! Non sull'ala. Piano, me la stacca. Già si regge per miracolo. Oh, mi scusi, Eros. Ma i peggiori sono i sessuologi in TV. Sono i primi responsabili della caduta del desiderio. Sono agenti di Thanatos, nemici di Eros. Ogni volta che parlano, migliaia di desideri si spengono. Quelle parole che usano per definirvi farebbero passare la voglia anche a King Kong. Dove passano loro, non spunta più Eros. Solo la Chiesa è dalla mia parte. Condannando il sesso lo rende più interessante. No, scusi, io qui non sono d'accordo, perché io nella cattolicissima Umbria ho ricevuto un'educazione sessuale spaventosamente repressiva. Lo so, imbevuta di clericalismo, grondante di colpa e vergogna. Eppure mi creda, più rispettosa del mistero dell'attuale negazione per eccesso. Non mi ritrovo in questo freddo coitare, mi manca l'attesa. Voi venivate dalla parrocchia e ci fu davvero una rivoluzione sessuale, allora... Che liberazione, che fervore! Non c'era ancora la paura dell'AIDS. E che grazia, che slancio. E la speranza di cambiare il mondo, cominciando dai rapporti fra le persone. Quella sovrana ingenuità che presiede al cambiamento. Allora sì che si osava e si sperimentava. Era un sesso bellissimo, pieno di speranza. Cosa ne pensa di questa ideologia della prostituzione espressa dalla docente Terry De Nicolò? Voi donne fate bene a ribellarvi a questo andazzo, ma sia chiara una cosa, le maggiori vittime non siete voi, sono io! Io che vengo offeso e messo in caricatura in questi riti orrendi, di vecchi con fanciulle comprate, niente a che fare con me. Uno spettacolo per l'Italia, a molti piacciono i bordelli del potere. Vi hanno resi così grossolani che vi piace la sopraffazione del denaro, ovvero lo stupro. Panem et circenses. Il pane ve lo stanno levando, il circo resta. Ma vorrei dire qualcosa alla signorina De Nicolò. Lei, Terry, è quel che genericamente si dice una bella ragazza. Ma non è una bellezza. Non è nemmeno un tipo. È una donna comune. Somiglia a tante altre. Non c'è niente in lei che spinga a ricordarla, almeno da come appare nell'intervista. Lei è fisicamente dimenticabile. Lei dice, le racche stiano a casa. Mi scusi la crudeltà, ma un Dio è permesso tutto, almeno quanto a una escort. Lei non è né bellissima né giovanissima. Fra un po', per quanto possa rattopparsi come il suo imperatore, i suoi doni naturali appassiranno. E allora che farà? Si autobutterà nel cassonetto, visto che il suo patrimonio è solo quello? E che secondo lei ha diritto di vivere solo chi ha un corpo piacevole? Nelle sue dichiarazioni le consiglio una maggiore prudenza. Cosa pensa dei compratori? Poveracci. Ma è possibile che appena hanno un po' di potere, la prima cosa che fanno è comprarsi le donne? Mai nessuna che gliela dia gratis, manco un bacio. Devono essere davvero ripugnanti. Non sono seduttori, sono clienti. Don Giovanni non ha mai pagato. Ma questi della donna hanno una paura boia, la pagano per cancellarla, per non ammettere la sua esistenza come persona. E mi dica, Eros, in quale altro modo si esprime questa paura? Non è solo paura, è odio. E questo odio si vede dal tipo di donna Mediaset, poi generosamente travasato anche in Rai. Hanno creato un modello femminile farsesco, tettone, labbroni, chiappone. Vi vogliono come i trans di una volta, perché i veri trans ormai, quelli che non battono, sono delle signore sofisticate, con grande capacità di accudimento. Anche una ragazza bella come la Minetti, poi ha la bocca sconciata, come il marchio di Satana, come il segno di appartenenza ad una setta. Ma senta, lei sta sempre peggio. Ma Eros è sicuro di volere continuare? Ma sì, andiamo avanti. Si ricorda quando i coniugi Poggiolini furono scoperti fra la refurtiva, coi mobili imbottiti di lingotti d'oro, come briganti di passo? La mia amica Minerva allora disse, rubano perché sono ignoranti, non sanno come si gode. Vale per ogni piacere. Quando si è abituati a comprare, il sesso senza soldi è un grande imbarazzo. Mi creda, non ne posso più dell'armento artificiosamente infogliato, che risponde come una rana morta a stimoli involontari. Io mi accendo solo per passione. Quindi, secondo lei, nei famosi festini non c'è desiderio? Certo che no. Con quei riti da caserma il desiderio non c'entra. Non sono impulsi incontenibili, anzi contenibilissimi, se ogni volta bisogna resuscitare il morto. Sono esibizioni di potere, patetiche, riti omoerotici a favore dei propri sgherri per riconfermarsi il capo. Viva la libera omosessualità. Ad essa io, come Eros, devo tantissimo. Ma in queste forme tortuose e mascherate è di molto dannosa. Ma mi spiega allora perché alcuni li ammirano e li invidiano? C'è un aforisma di Umberto Silva. Mezza umanità fa schifo, l'altra metà la ammira. Ma a parte questo, secondo lei, di cosa hanno paura gli italiani? Ma di essere mangiati vivi dalle tasse, da Equitalia? No! E del No? No. Gli italiani hanno paura di sembrare moralisti, di non stare al passo con quella che Gianluca Nicoletti chiama la burinizzazione del pensiero. E quanto quel povero uomo che ha lavorato con tanta pazienza per trasformare il paese in un lupanare senza gioia mi ricorda un personaggio che conobbi quando ero ancora un dio. Era un satrapo, si chiamava Sardanapalo. Quando seppe di dover morire fece uccidere le mogli, i figli, i cortigiani, i levrieri, i falconi, gli schiavi, i cavalli, perché tutto morisse con lui. Ecco, anche lui, come Sardanapalo, vuole guastare tutto prima di morire. A proposito, scusi, non vorrei essere indelicata, ma tanto lo saprà lei, mi ha contagiato. Scusi. Lei è pericoloso. Tempo fa corse voce che lei fosse morto. No, stia tranquilla. Quando morirò ve ne accorgerete subito, perché sarete morti anche voi. Niente Eros, niente vita. Io sono un'astuzia della natura. Per non far estinguere uomini e mondi. Sono il sospiro della specie, come diceva Schopenhauer. Guai a chi mi calpesta. Io sono un territorio sacro. Ora vado, se no i condomini mi buttano via il carrello con le mie cose. Ma dove posso trovarla? Dove meno se lo aspetta. Ho una forma diversa per ciascuno, ma sto fisso in una canzone di Paolo Conte. Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più nordica e pelosa, bionda e afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita. È tutta un'altra cosa. Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca, afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. La guardiana del faro. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena oggi dal faro, poi eccezionalmente trasmessa da... proprio dalla radio, dalla sede della radio di Roma, abbiamo risposto al Vangelo di Terry De Nicolò, che gira su YouTube, appunto, o ci si vende o si è dei disgraziati, degli sfigati. Però vorrei dire che a un certo punto le donne non ne hanno potuto più e il 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, siamo scese in piazza in un milione. E allora certi giornali e certi individui hanno cercato di creare una contrapposizione tra le donne acide, invidiose, contro Bocca di Rosa. Noi eravamo la carica delle Befane, e beh, saranno belli loro. Cioè, il fatto che ha fatto paura che noi scendessimo di nuovo in piazza, per noi intendo le donne, perché finalmente credevano di averci domato e di averci proprio ridotto a cose da vendere in stock per dei favori, per delle mazzette e via dicendo. Ecco, una cosa spero che sia chiara. Non si tratta di dividere le donne per bene dalle donne per male. Anzi, io saluto, sperando che mi senta, la Gianna, che qualche anno fa batteva San Lorenzo. Era una mia grande amica, ci parlavamo tutte le sere. Lei rischiava, adesso non so se batte ancora, ma rischiava la pelle tutte le notti. E col suo lavoro ha fatto laureare due figli, un genio. Perché la Gianna, cara Gianna, non ti offendere se mi senti, ma bella non era. Non è, voglio dire, è una donnina così. Doveva essere una illusionista dell'erotismo. E poi anche è un lavoro di grandissimo rischio. Una che si guadagnava da vivere duramente, con coraggio, e aveva pure liquidato il suo protettore. Ha fatto un bel corso di arti marziali, Quando si è sentita matura, gli ho detto: senti, a me tu non mi servi più. Lui ha provato a dargli uno sberlone, lo ha letteralmente atterrato e fieramente poi batteva senza dover versare una tangente. Perché ci sono dei modi eroici anche tra le puttane. E inoltre mi vanto di essere l'unica che ha difeso la Daddario, l'unica donna che ha difeso Patrizia Daddario quando l'hanno cacciata da Piazza Navona. C'era questa manifestazione della sinistra, lei, essendo diventata molto invisa alla destra e anche correndo dei rischi, è andata lì pensando di essere accolta. Invece, essendo una donna coraggiosa che ha incautamente sfidato i grandi poteri, sapendo che nessuno avrebbe alzato un dito per lei perché non aveva nessuno dietro, perché aveva contro tutto, ha contro tutti, i gangster della destra e i bigotti della sinistra. Io mi inchino al suo coraggio. Invece queste donne l'hanno cacciata via dicendo: che cosa ci fai tu qui? Si sentivano sporcate. Io, conoscendola, le ho voluto bene per la sua semplicità e per una sua irreparabile orfanezza. Certo, all'inizio mica una santa, all'inizio era anche lei funzionale a questo sistema di prostituzione e di favori illeciti, volevano la licenza. Poi lui non ha mantenuto la promessa e lei, come un bambino ingannato, testardamente si è messa nei guai, perché per lei i patti, anche dei patti fra delinquenti, andavano rispettati. E appunto quando si è presentata questa manifestazione, le donne per bene della sinistra si sono offese e l'hanno cacciata a spintoni. Allora avevo scritto un articolo dove dicevo: Piazza Navona è un racconto di Maupassant, Patrizia e Boule de Suif. In questo racconto siamo nel 1870. I prussiani vincitori invadono la Francia e dalla città di Rouen occupata c'è una carrozza che parte nottetempo di gran fretta per Le Havre. A bordo ci sono dei ricchi borghesi, con le mogli, due suore, un conte. Partono di fretta. Al momento di salire rimangono indignati, perché con loro viaggerà anche Boule de Suif, la prostituta. In viaggio nessuno le rivolge la parola. Però questi nella fretta non hanno portato la merenda, non hanno portato da mangiare e sono tratti di 12 ore negli scossoni. Hanno una gran fame e l'unica che ha portato le provviste è Boule de Suif. E vengono dei tali odorini, fragranti da questi canestri che ha portato Boule de Suif, che diventano un po' meno villani, cominciano a rivolgere la parola, a essere gentili, e gliele finiscono. E lei è tutta contenta, poi dopo ridiventano subito un pochino scostanti, ma intanto l'hanno accolta nel gruppo. Ed ecco un blocco di militari, i prussiani li fermano. E loro si fermano in questa, dormono, pernottano in questo albergo, molto spaventati perché non sanno quale sorte avranno e hanno una paura terribile. Al comandante piace questa bella grassona con un cappellino a veletta e vorrebbe passare la notte con lei. E lei rifiuta, è indignata perché lei è una patriota ardente, mai andrà col nemico. E allora c'è la notte del convincimento. I gentiluomini, le signore che prima la trattavano come qualcosa di immondo, d'un tratto le donne l'abbracciano, gli uomini sono paterni, diventa una figlia. Le suore poi sono le più accanite nel dimostrarle che è molto gradito a Dio darla a fin di bene. Insomma, si vogliono salvare la pelle, sulla pelle di Boule de Suif. E Boule de Suif è confusa, dice alle suore: ma come? A Dio è gradito anche se uno va col nemico, anche col prussiano. E loro soprattutto coi prussiani. E lei, di colpo, si crede accolta da quelli che la disprezzavano. E allora, con un grande disgusto, accetta di passare la notte col prussiano. Mentre loro sono sopra, lei il prussiano, questi borghesi sono rimasti nel salone e cominciano poco a poco a scherzare tra di loro, a farsi delle battute un po' cochon. Comincia a diventare una cosa un po' licenziosa e poi vanno tutti in camera e si capisce che loro lucrano anche su questo accoppiamento e la notte si scopano pure le loro inscopabili mogli. Boule de Suif scende da questa esperienza disfatta. Si aspetta che la ringrazino, si aspetta che la consolino, si aspetta che in qualche modo il suo sacrificio venga apprezzato. Si aspetta veramente di essere accolta del tutto. Ma altro che gratitudine. Questi fanno finta di non vederla. Di nuovo è ridiventata un'appestata. La carrozza parte di corsa e stavolta è Boule de Suif che non ha avuto il tempo, anche perché era sconvolta, di fare delle provviste. Gli altri invece si sono portati, stavolta hanno avuto tempo, ogni ben di Dio. E a Boule de Suif non offrono niente. Nessuno le rivolge la parola. Le viene da piangere, prima dei singhiozzi timidi e poi dei singhiozzi disperati. È buio, la carrozza viaggia nella campagna e il pianto di Bull Swift chiude il racconto. Mentre un passeggero, l'unico che ha un po' di senso morale, l'unico che abbia capito che cosa è accaduto veramente, fischia minacciosamente la Marsigliese. Ora, che l'ipocrisia, il bigottismo, l'opportunismo schifoso, la spocchia del rango dei borghesi di Rouen si ritrovino intatti 140 anni dopo in una piazza della sinistra è bruttissimo. C'è una frase chiave nel racconto di Maupassant: non si potevano mangiare le provviste di quella donna senza rivolgerle la parola. E noi ce le siamo mangiate, le provviste della D'Addario. E come? E sono state molto importanti. E lei rischia di pagarla cara, perché questi ducetti che lei ha sfidato hanno memoria. A Piazza Navona, quando lei è andata a questa manifestazione della sinistra da cui l'hanno cacciata, Patrizia non cercava solo pubblicità, credeva di essere stata accolta, come Bull Swift. Io non c'ero a Piazza Navona, l'ho sentito alla radio, proprio da un reportage di Radio 24. Sento una voce sguaiata, da orchessa che grida: «Escort di merda!» Io non sapevo chi stesse parlando e di chi, però ho riconosciuto lo stile e ho detto: «Ma questa è la Santanchè!» Invece era una signora di sinistra che inveiva contro la D'Addario per cacciarla via. La Santanchè di sinistra urlava: «Vattene! Noi siamo qui a difendere la cultura!» Beh, se questa è la cultura, preferisco tornare scimmia. Viene proprio voglia di fischiare la Marsigliese. La prossima volta continuiamo a trattare questo argomento. Sarebbe molto interessante se qualcuno di quelli che ci ascoltano ci telefonasse o ci scrivesse per farci sapere cosa ne pensa. Insomma, fare o non fare marchette, non in senso strettamente fisico. E cosa ne pensate di questa ideologia della prostituzione? Voi ne fate? E insomma, se volete intervenire, scriveteci o telefonateci. Ringrazio Giuseppe Sanzonna per aver prestato la sua voce al povero Eros Morente. Ringrazio Gianluca Nicoletti per averci prestato il suo collaboratore ed amico. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.